presento, rappresento l'apparenza. Sistema nel sonno, il mio nome in ogni circostanza. Tienilo presente, io sono l'ennesimo rapper rucolo, ma che ti frutta il novantesimo. Se hai premuto play non dico che ha fatto male, ma non ti devi aspettare qualcosa di particolare. Lascia stare, perché so che non soddisfa un ragazzo normale con i suoi punti di vista. Mollami se cerchi fatti di cronaca nera, questa è musica, mica il Corriere della Sera. Mollami se cerchi veri gangster qui, t'assicuro quelli veri no, non fanno gli MC. Mollami se vuoi vocaboli complicati, solo per far vedere che c'ho i testi impegnati. Mollami, mollami, qui c'è solo il Farawan. Sono più elegante, col cessato e le Ray-Ban. Milanese che hai, brambilla, e le scarpe lucida del cellulare che squilla. Hai l'aria indaffarata e la giacchetta aperta, però non lo dici mai che sei nato a Caserta. Tu fai parte dei più tristi, rinneghi le tue origini, sei peggio dei leghisti. Non vedi sei in declino, e fammi sto puntino. Tu mi chiami Terrone Rabbino, ficcato in culo quell'abbino. Divisi come a Berlino, tutto è Peppino, nord e sud Italia è un gran casino. L'Italia è un gran casino, chi ci farebbe un fallo per poi farci un gran casino con l'accento sulla O. Merde, chi fa la fame chi ha lo yacht, chi mette i soldi in banca e chi li mette in una slot. Invece a fine mese brutalmente ma a cappotto, e chi con 100 euro la raccoglie fa un tipotto. Bounce con la testa.